L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, come sempre, qui, come ogni settimana con l'Altra Europa, per raccontarvi altri punti di vista, altre sfaccettature, altre sfumature di questo percorso che stiamo seguendo ormai da anni, questo percorso europeo che seguiamo insieme a Euronet Plus, il network di radio europee, tante voci per raccontare appunto un cammino comune. Euronetplus.eu, il sito ufficiale, le coordinate invece per trovarci sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia. Qui ci trovate sia su Facebook che su Twitter. Ogni settimana un viaggio, oggi la destinazione è il futuro. Per introdurre questa iniziativa della Commissione Europea, che ha lanciato un invito a votare online 11 visioni nel mondo tra 20 o 40 anni. Le visioni sono state raccolte durante l'anno passato attraverso una piattaforma di discussione online, Futurium, e ci sarà possibilità di votarle fino a fine novembre, però l'idea è proprio quella di ragionare, cercare di vedere il futuro e in particolare il futuro dell'Europa. Ieri a Vilnius è stato presentato Futurium all'interno di una manifestazione dedicata al domani dell'Europa. Con noi c'è Franco Accordino, capo della Task Force dei Futuri Digitali all'interno della Direzione Generale delle Reti di Comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologie della Commissione Europea. Buongiorno Accordino, buon sabato. Buongiorno. Si guarda al futuro lì, dal cuore dell'Europa. Direi, sì. Intanto la ringrazio veramente per aver dedicato questo spazio al futuro, perché credo in un momento di crisi sistemica globale sia molto importante poter parlare di futuro, non tanto per sfuggire ai problemi di oggi, perché non è questa l'intenzione, ma più che altro veramente per poter esplorare nuove direzioni, avere nuove idee su come avere un futuro migliore per i cittadini, per l'Europa in generale. Ecco qual è la nostra motivazione. Con un coinvolgimento diretto dei cittadini, cosa avete chiesto? Idee, opinioni, sensazioni, bisogni? In questo caso si parla del futuro, quindi i cittadini di oggi cosa possono offrire? Esatto. Direi tra meno di un anno il quadro istituzionale europeo sarà cambiato. Avremo le elezioni a maggio, a cui tra l'altro invito tutti a partecipare, a chiedere a tutti amici e parenti di partecipare. Quindi ci sarà un cambio del Parlamento e ci sarà anche un ricambio del Collegio dei Commissari. Ecco, come capita in queste occasioni ci sarà una riflessione su quali sono le sfide da affrontare, quali sono anche le opportunità che soprattutto lo sviluppo tecnologico può offrire. Ecco, noi piuttosto che dibattere internamente tra noi stessi sulle politiche, possibili politiche future, bene, abbiamo interpellato non gli stakeholder usuali solamente, ma siamo partiti dal basso. Abbiamo fatto un crowdsourcing di idee, di visioni, dove si vuole andare, il futuro, i futuri possibili, come vuole arrivarci, le politiche, le proposte politiche, le azioni. E poi un terzo livello è di chi fa cosa. Abbiamo interpellato più di 2000 persone, le abbiamo incontrate nelle piazze, nelle scuole, ovunque. Ecco, il risultato è stato veramente straordinario, straordinario. Queste persone hanno co-creato più di 200 futuri o visioni possibili. Ecco, gli 11 futuri di cui lei parlava sono una sintesi di tutto questo progetto che si chiama Futurium. Uh-huh. E sono disponibili e accessibili a tutti. Adesso vogliamo fare quello che si dice in inglese un reality check, una verifica, e quindi invitiamo tutti a darci il loro feedback, il loro voto, di votarli secondo due dimensioni importanti. Allora, la rilevanza o l'impatto, e l'altra invece è il timing, cioè quando questi futuri, queste visioni diventano importanti, se per ora o per i prossimi 5 anni, oppure se sono veramente talmente lontani che è importante essere nel corrente, però magari per i quali l'azione politica è ancora probabilmente troppo, non è ancora matura. Ecco. Certo, quindi 200 idee, sono stati individuati questi 11 temi trasversali, tutto ciò lo potete trovare sul sito ec.europa.eu. E però Accordino, ci può fare un esempio di queste 11 visioni per capire appunto l'Europa cosa sta guardando? Ecco, questa è la parte più interessante, perché il processo è sicuramente originale, direi, però la parte più interessante è poi alla fine il risultato, il prodotto di questo processo, che sono questi 11 futuri. Direi l'idea di un futuro in cui l'uomo e la tecnologia si integrano sempre di più, fino addirittura a fondersi, l'idea proprio del transumanesimo, questa è una. Sì. Il fatto che noi sempre di più siamo in grado di capire cosa succede nel nostro corpo all'interno del physiological human, di avere una rappresentazione virtuale della nostra fisiologia, quindi utilizzare questo per poter non solo diagnosticare le cose un po' più accuratamente, ma anche a fare delle terapie più specifiche e mirate, la medicina personalizzata, eccetera. Allora, questo, le implicazioni saranno soprattutto sulla longevità delle persone, quindi una società di supercentenari che ci attende e che già stiamo vedendo. Allora, quali sono le implicazioni dal punto di vista sociale, dal punto di vista del lavoro? Se le persone saranno in grado di lavorare dalla nascita fino all'ultimo giorno, a quel punto cosa si farà nella vita? Allora, la torta che c'è del lavoro complessivo necessario per sostenere il mondo, come sarà divisa attraverso le differenti classi di età o diciamo regioni, eccetera? Allora, la tecnologia sta trasformando il mondo sotto i nostri occhi, è una cosa incredibile, siamo di fronte a una rivoluzione senza precedenti e probabilmente siamo ancora all'inizio. La robotica, le stampanti tridimensionali consentiranno probabilmente di invertire quel senso verso la globalizzazione che abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni, riportare nel piccolo paese, nel piccolo villaggio, nella città, forse anche a casa nostra, la produzione, ma a quel punto anche il consumo. Certo. Quindi riuscire a disegnare dei prodotti che riflettono i nostri gusti, la nostra creatività, e poi vederli stampati e realizzarli. E questo è solo uno scenario, tra l'altro è molto concreto, e è importante farsi queste domande, perché sono domande che fanno scaturire altre domande, altre riflessioni, altre suggestioni, altre criticità, come ci ha fatto benissimo capire. Accordino, la ringrazio davvero, ricordiamo ancora ec.europa.eu per conoscere e per partecipare a Futurium, si può dire la propria, si può portare il proprio contributo, ma soprattutto si può riflettere, che in questo momento è cosa fondamentale. Grazie davvero a Cordino, spero di ritrovarla in una delle prossime puntate qui all'Altra Europa. Buon sabato. Sicuramente, grazie, arrivederci. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Euro post-it. Premio creatività per le scuole. Premio Creatività 2013 è il concorso lanciato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rivolto agli studenti per incoraggiare la loro creatività. Per partecipare occorre avere almeno 16 anni ed avere una buona idea che abbia come tema l'importanza della tutela del diritto degli autori, anche sotto il profilo del rispetto della legalità e del rifiuto di ogni forma di utilizzazione abusiva delle opere. Per spiegarlo, si può utilizzare una qualsiasi delle arti protette dal diritto d'autore. Si può scrivere, per esempio, un soggetto cinematografico, uno spettacolo teatrale, oppure realizzare un dipinto, un'opera d'arte o un cortometraggio. Il bando scade il 27 febbraio 2014 e l'iscrizione va fatta attraverso la propria scuola. Per saperne di più, hubmur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-studente. L'altra Europa. Abbiamo parlato di elezioni europee, l'abbiamo fatto pochi minuti fa, lo abbiamo fatto nelle puntate scorse, lo faremo perché vi vogliamo accompagnare a questo importante appuntamento. E pochi giorni fa anche il presidente Napolitano ha parlato, ha denunciato il silenzio che c'è sull'Europa, dicendo si parla di Europa solo ogni 5 anni e non bastano 40 giorni di campagna elettorale a confutare tutti i pregiudizi. E ci sono tanti sondaggi già che stanno uscendo su quello, sull'euroscetticismo, sull'interesse che c'è, su quanto gli italiani abbiano voglia, desiderio di Europa. Però vogliamo ripartire proprio da lì, dal nostro Presidente della Repubblica, per parlare d'Europa, e lo facciamo grazie a un libro, La via maestra, l'Europa e il ruolo dell'Italia nel mondo, una bella, approfondita chiacchierata che il Presidente della Repubblica ha fatto insieme a Federico Rampini, giornalista e inviato del quotidiano Repubblica a New York, che è qua con noi. Ciao Federico, benvenuto all'Altra Europa. Grazie. Allora, tu hai avuto la possibilità di parlare col Presidente Napolitano di Europa tante volte, questa chiacchierata è diventata un libro. Quanta Europa c'è nel nostro Presidente? Ah beh, in lui ce n'è tanta davvero. Direi che infatti il libro ripercorre anche una pagina di storia abbastanza lontana, quella in cui Giorgio Napolitano fu insieme con Giorgio Amendola, uno dei due leader di quella che allora si chiamava la destra del Partito Comunista Italiano, che portò al termine un'operazione molto importante, cioè il PC all'inizio era contrario all'Europa, era proprio all'opposizione rispetto al progetto di costruzione di quella che si chiamava la Comunità Economica Europea, e Amendola e Napolitano ricucirono il rapporto con un personaggio storico fondamentale, Altiero Spinelli, certo. Lo portarono alla fine addirittura a candidarsi nelle liste del Partito Comunista Italiano, e comunque questo fu un avvicinamento prima alla Comunità Europea, poi anche alla NATO, che portò il PC, la sinistra, il partito più importante della sinistra italiana, nell'alveo del progetto europeo. Quindi è da allora, è un percorso molto ormai molto antico quello che ha portato Napolitano ad appassionarsi personalmente dell'Europa. E questo continuo connubio tra l'interesse nazionale e l'interesse comune europeo, e questo è anche il cuore del tuo libro. Quando lui indica la via maestra, quando pensa alla via maestra, che Italia, che Europa ha in testa? Ma ecco, la via maestra significa innanzitutto che per Napolitano non c'è un futuro dell'Italia, non esiste un ruolo per l'Italia nel mondo se non attraverso l'Europa, che non significa accettare passivamente, supinamente quelle che sono oggi le linee direttrici della politica economica europea. C'è tutta una parte del libro che è una discussione tra di noi, per esempio sui limiti dell'austerity, sul fatto che oggi occorrono politiche di crescita, politiche di rilancio dell'occupazione, però per imprimere un segno diverso alla politica economica europea l'Italia deve esserci. Se invece l'Italia dovesse sciaguratamente chiamarsi fuori, mettersi ai margini o comunque essere un attore debole, come è tuttora del concerto europeo, allora la nostra possibilità di incidere, di provocare quel cambiamento nelle politiche viene meno. L'ultimo capitolo si intitola Cultura e vocazione dell'Italia da grande. Tanto la prima domanda è: quand'è che quest'Italia diventerà grande e qual è questa vocazione che hai colto? Ma siccome poi tutti questi capitoli nascono da un ping pong di domande e risposte, io le mie domande le faccio spesso nella prospettiva di un nomade globale, un italiano che vive all'estero da tantissimo tempo, che ha vissuto all'estero la maggior parte della sua vita. Allora mi interrogo sul fatto che alle volte, vista da lontano, l'Italia è molto meglio di come la vedete voi che ci state dentro tutti i giorni, e cercando di interrogare il Presidente su quella che può essere la vocazione dell'Italia per una rinascita del Paese, la cultura evidentemente sembra una delle risorse fondamentali, e quindi chiedo a Napolitano, che ha una passione anche qui che viene dagli anni giovanili, lui ha un'antichissima passione per il teatro, per il cinema, per la letteratura, ha conosciuto alcuni dei più grandi intellettuali italiani e spesso si è speso come Presidente della Repubblica, sia pure senza avere il potere operativo di un governo per stanziare i fondi alla cultura, lui si è spesso impegnato perché l'Italia, anche in tempi di ristrettezze, di austerity, in cui bisogna fare dei tagli dolorosissimi, non sacrifichi quella che è la nostra risorsa più preziosa sulla quale si può costruire un rilancio. Federico, invece l'Europa vista da lontano com'è oggi? Ma oggi l'Europa è molto debole, lo dico, vista dagli Stati Uniti, non so, per dire, venerdì abbiamo avuto un dato sull'occupazione americana che farebbe sognare gli europei, più 200.000 posti di lavoro netti in un solo mese, la ripresa americana ormai è già antica di 3 anni, è una ripresa che cammina sulle gambe di un'economia reale molto solida, mentre l'Europa appare davvero nel pianeta come una specie di buco nero della crescita, è l'unica zona che non cresce, perché l'America cresce, l'Asia anche, e poi soprattutto l'Europa ancora non parla con una voce sola. Ecco, questa è la cosa dove il tipo di osservazione che posso fare io dagli Stati Uniti converge largamente con il travaglio e l'angoscia di Giorgio Napolitano, cioè questa Europa ancora troppo spesso è un concerto dissonante, un'orchestra disordinata come l'orchestra di Prove d'orchestra al film di Federico Fellini, sulla politica estera, per esempio, troppo spesso si divide, si spacca, ma anche su questioni fondamentali di politica economica non esiste ancora un governo europeo dell'economia e lo si vede molto crudelmente stando qua negli Stati Uniti. Ringraziamo Federico Rampini, tra l'altro è uscito da pochissimo il libro Banchieri, sempre per Mondadori. Molti hanno raccontato la crisi, nessuno finora ci ha detto chi l'ha causata. Federico, lo sai, è vero che quest'anno il tuo direttore di banca non ti regalerà l'agenda? Dell'agenda della banca francamente non me ne può importare di meno. Quello che trovo drammatico è che tanti banchieri in questo momento stanno sabotando la ripresa economica in Italia, anche in altri paesi europei, fanno mancare all'economia reale l'ossigeno essenziale. Tutto questo è raccontato nel libro Banchieri. Grazie davvero Federico, ciao e buon sabato. Grazie. Europost-it. Comunicare l'Europa in Italia in un ebook. Come si possono comunicare le istituzioni europee in Italia? Perché nel nostro paese è così difficile farlo? Lucia D'Ambrosi e Andrea Maresi, due esperti di comunicazione europea nella teoria ma anche nella pratica, hanno tentato di rispondere a queste domande nel loro libro Communicating Europe in Italy, Shortcomings and Opportunities. Il libro ha anche l'introduzione dei due vicepresidenti italiani del Parlamento europeo, Roberta Angelilli e Gianni Pittella. Se siete interessati, il libro ora è scaricabile gratuitamente online in versione ridotta per Europarlamento 24 ePeople all'indirizzo europarlamento24.eu, mentre rimane acquistabile la versione cartacea integrale alle edizioni dell'Università di Macerata, EUM. Questi sono i nostri Europost-it, li potete ritrovare su radio24.it, il nostro sito. Comunicare l'Europa, questo abbiamo appena ascoltato. Chi lo fa quotidianamente? Il nostro corrispondente, il corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, Beda Romano, che è qua con noi proprio per parlare di cultura, tema che abbiamo sfiorato anche pochi minuti fa con Federico Rampini. Ciao Beda, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno a te. Italia Cenerentola dei consumi culturali, questo era il titolo di un pezzo che è scritto qualche giorno fa a commento dell'Eurobarometro, dell'ultimo barometro pubblicato dalla Commissione Europea, dove si analizzava proprio quelli che sono i consumi culturali in Europa. L'Italia fanalino di coda, si parla tanto di cultura, poi però non si va al cinema, non si va al teatro, non si va a vedere l'opera. Qual è stata l'analisi che hai fatto? Quali sono state le sensazioni che hai raccolto da questi freddi numeri? La cosa che mi ha abbastanza sorpreso è che, nonostante il fatto che l'Italia si consideri un museo a cielo aperto, e ha ragione evidentemente per le città d'arte e per tutta una serie di motivi, gli italiani sembra, a seconda di questo sondaggio, essere estremamente parsimoniosi nel consumo culturale. Alcune cifre in particolare mi hanno sorpreso. Negli ultimi 12 mesi solo il 60% degli italiani ha visto o ascoltato un programma culturale alla televisione o alla radio, solo il 56% ha letto almeno un libro, solo il 53% è andato al cinema, solo il 30% ha visitato un museo, solo il 24% è andato a teatro e solo il 17% ha assistito a un balletto o a un'opera lirica. Allora, evidentemente questi sondaggi vanno presi con le molle, perché potrebbe esserci uno sfasamento tra offerta e domanda. Certo. In altre parole, l'offerta che il pubblico italiano ha in termini culturali non corrisponde alla domanda, e quindi il sondaggio in questo senso non dà il riflesso corretto della realtà. Ma al di là di questo aspetto c'è un'altra cosa che è abbastanza sorprendente da questo sondaggio: il motivo per cui gli italiani non vanno al cinema, non vanno a teatro, non leggono libri, il motivo principale non è quello del costo economico, che evidentemente siamo in una grave situazione economica e in recessione, si potrebbe pensare che il costo economico è il motivo per cui l'Italia, l'italiano preferisce non consumare prodotti culturali in questo momento. Ebbene, dal sondaggio dell'Eurobarometro, in realtà il vero motivo per cui l'italiano non consuma prodotti culturali è dovuto a carenza di tempo o a carenza di interesse. Ecco, quindi insomma due elementi ben lontani dalla crisi, forse ben più preoccupanti. E, di ritorno però c'è un aumento di quello che è l'utilizzo di internet, nel senso che quello che non si va a cercare al cinema o non si va a cercare a teatro lo si cerca online? Sì, esattamente. C'è di più in un certo senso. È possibile che internet stia diventando, ma non solo in Italia, probabilmente in molti paesi occidentali, un modo per consumare cultura, una cultura molto diversa da quella che si è consumata per tanti decenni, ma è ben possibile che internet faccia parte del consumo culturale quotidiano delle persone. Mm-hmm. La cosa interessante però dal sondaggio che emerge è che c'è un legame tra chi consuma cultura e chi utilizza internet. In altre parole, sembra che in Italia ci sia una corrispondenza tra colui che consuma di cultura di più e quindi consuma prodotti culturali con maggiore frequenza e chi utilizza internet. Un dato in particolare mi ha abbastanza colpito: il 48% degli italiani usa il web per leggere i giornali rispetto al 53% degli europei, e il 38% degli italiani utilizza internet per cercare un evento culturale rispetto al 44% degli europei. Gli italiani sono sempre sotto la media europea, salvo in un aspetto, in tre campi in particolare. Primo campo, la lettura di blog culturali, dove la media italiana è più elevata della media europea, l'uso delle reti sociali, e il terzo aspetto, forse non particolarmente culturale, ma insomma anche quello fa parte del sondaggio, i giochi online, dove la media italiana è superiore anche qui alla media europea. L'articolo di Beda Romano potete trovarlo online, ho pubblicato il link ora sulle nostre pagine Twitter e Facebook. Grazie davvero Beda, so che ti ho disturbato mentre dovevi acquistare una stampante, l'hai trovata? Non ancora, no. Ma sono fiducioso. Buon sabato, grazie davvero Beda, ciao, alla prossima. A presto, ciao. Arrivederci, grazie. La pubblicità poi subito qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Begin. End. Win. Lose. Hold on. Move on. Think global. Think local. Dream. Wake up. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Aeronet Plus R24 oppure Federico Taddia, ci trovate su Twitter, su Facebook oppure sui siti radio24.it e euronetplus.eu. Quello che state ascoltando è uno spot legato alle elezioni europee del 2014, anche noi stiamo facendo questo cammino, manca poco più di 6 mesi di avvicinamento a questo importante appuntamento. Agire, reagire, decidere, tre parole scelte per la campagna, per le prossime elezioni degli europarlamentari, tante iniziative, in particolare questa settimana a Roma si è animata con la prima tappa di questo percorso, si è messo al centro il lavoro, si sono messe al centro storie di successo legate alla rete e non solo. Per comprendere meglio e presentare questa campagna legata alle elezioni e in particolare quello che è successo a Roma in pochi un paio di giorni fa, c'è con noi l'onorevole Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento Europeo. Buongiorno Angelilli, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, da dove partiamo? Sa che già oggi la parola elezioni europee l'abbiamo citata 3 o 4 volte, mancano 6 mesi, è tanto tempo ma è anche pochissimo tempo, c'è bisogno, desiderio, voglia di partecipazione, vero? Assolutamente, la partecipazione è la chiave di tutto. L'idea di questa campagna del Parlamento europeo è proprio quella di mettere il cittadino e quindi anche le imprese, le famiglie al centro delle decisioni, trovare il modo, le opportunità per far partecipare in maniera veramente forte, in maniera veramente decisiva il cittadino all'interno del processo decisionale. Quindi partire dall'informazione, che purtroppo spesso non c'è, soprattutto in Italia, e poi dare al cittadino gli strumenti per poter incidere sulle decisioni. In questa prima tappa romana, una serata presentata da Riccardo Luna con la compagnia teatrale Il Ratto d'Italia, organizzata dall'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia, avete messo al centro il lavoro e soprattutto i giovani e queste storie di chi ce l'ha fatta. E questo vuol dire agire, reagire, decidere oggi? Sì, noi dobbiamo dare delle opportunità, soprattutto per quanto riguarda i giovani, delle opportunità di discussione. I giovani devono poter costruire il loro futuro attraverso proposte, attraverso idee, anche contestando, se del caso, proposte, idee e decisioni, scelte già fatte. E quindi innanzitutto analizzare quello che non va. Ricordiamo che in Europa un giovane su quattro è senza lavoro e in Italia oltre il 40% dei giovani è disoccupato, quindi analizzare quello che non va, però poi guardare anche il bicchiere mezzo pieno, quindi dal 1 gennaio 2014 parte la nuova programmazione comunitaria, ci saranno oltre 30 miliardi di fondi strutturali per l'Italia, circa 8 miliardi proprio per i giovani, la formazione, il lavoro. Allora decidere insieme come gestire, come utilizzare al meglio questi fondi per la formazione di qualità, quella veramente utile, cioè quella veramente connessa con il mondo del lavoro, con il mercato del lavoro, con le aziende. Dobbiamo parlare della startup per le imprese, l'accesso al credito, al microcredito, dobbiamo parlare quindi di come utilizzare al meglio i fondi comunitari proprio per i giovani, per far crescere i giovani, per dargli delle opportunità di lavoro. Certo, il progetto l'Erasmus, Erasmus Plus, con tutte le novità, anche la garanzia europea per i giovani, insomma è l'Europa delle opportunità che ci piace sottolineare e raccontare, perché credo che poi alla fine sia il vero senso dell'Europa. Grazie davvero onorevole, saranno 6 mesi tosti, quindi buon lavoro, spero poi di ritrovarli in una delle prossime puntate, perché vogliamo avvicinarci insieme a questo importante appuntamento, ok? Buona giornata. Buon sabato, grazie. Andiamo a conoscere invece una di queste storie, perché erano 10 protagonisti, 10 italiani, 10 giovani italiani che ce l'hanno fatta nel senso che il loro talento, la loro creatività, la loro testardaggine anche hanno portato a un risultato. Sono eccellenze? No, sono anche storie di ordinaria normalità, però che hanno trovato una concretizzazione di un sogno. Con noi c'è Dario Carrera, uno dei protagonisti della serata. Ciao Dario. Sì, buongiorno a radioascoltatori, buongiorno a te. Cofondatore di The Hub Roma e non solo, perché in curriculum hai 1000 attività, tra le quali anche sei allenatore di calcio? Assolutamente, di una squadra specialissima, una squadra di calcio composta interamente da richiedenti asilo, rifugiati politici, migranti forzati, patrocinato dall'UNHCR. Okay, quindi insomma... E domani siamo in campo. Ah, ok, perfetto, quindi in bocca al lupo intanto. Dario, appunto, protagonista di questa serata con la tua storia, qual è il cuore della tua esperienza? Perché la tua è una storia di successo? Ma il successo è tutto da dimostrare tutti i giorni, nel senso che siamo un po', puoi dire, quella resistenza imprenditoriale in questo momento abbastanza asfittico dal punto di vista dell'entusiasmo e degli strumenti abilitanti per un'imprenditoria che funzioni, perlomeno nel nostro paese. Il nostro valore aggiunto è quello di creare, diciamo, degli spazi di contaminazione, opportunità per chi crede di, appunto, migliorare in meglio il proprio quotidiano attraverso delle iniziative di impresa, siano esse curate dal pubblica amministrazione, società civile o attività di impresa for profit. Sono degli spazi in open space, ma in rete con altre 40 città in tutto il globo, che dialogano attraverso, diciamo, social network professionale. Sono degli acceleratori sui generi, nel senso che noi cerchiamo di rendere complementari i profili professionali che popolano i nostri spazi di co-working. Il tema vero è appunto quello della social innovation, cioè cercare di, con delle opportunità professionali, di cambiare in meglio quello che ci circonda. Dario, e quanta Europa c'è nella tua quotidianità professionale e anche personale? Guarda, in verità l'Europa noi un po' la facciamo, nel senso che per noi non esistono i confini. Appunto, attraverso le nuove tecnologie, un messaggio o un'opportunità per un'iniziativa comunitaria, piuttosto che ricercare un web designer, piuttosto che un progetto similare a quello che esiste sulla città di Roma, piuttosto che quello di Tel Aviv o quello di Firenze, bene, davvero ci basta un click e una piattaforma di collaborazione a nostra disposizione per accelerare quel percorso che va dalla business idea alla produzione dell'aspetto sul mercato. Hubroma.net è il sito ufficiale per chi volesse conoscere meglio la tua attività. Complimenti, in bocca al lupo insomma a te e a tutto il tuo team. Ciao Dario, a presto. Creepy, e un saluto a voi. Ciao, buon sabato. Adesso le informazioni per chi sta viaggiando: prima un euro post-it, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. UE per i giovani, incontri di formazione e networking. La rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo organizzano per la prima volta a Spazio Europa a Roma, in via 4 novembre 149, incontri formativi e di networking per giovani moltiplicatori, cioè comunicatori, progettisti, imprenditori e amministratori pubblici locali. Lo scopo è informare e orientare i giovani verso le fonti di informazione dell'Unione Europea e fornire un quadro generale dei nuovi programmi per il periodo 2014-2020 a favore dell'apprendimento e della mobilità, della formazione, dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile, nonché dei diritti e della cittadinanza. I quattro incontri, organizzati con il supporto tecnico dell'Associazione AIM, Agenzia Intercultura e Mobilità, si svolgeranno tra il 21 novembre e il 22 gennaio. Per ogni incontro ci saranno sessioni informative con panel di relatori esperti, rappresentanti delle istituzioni, workshop e momenti informativi. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi. Trovate informazioni e possibilità di iscrizione sul sito ueperigiovani.eu. L'altra Europa. So many wars in this special place, you know. First World War, it starts here in Sarajevo, you know that, with attentat of Franz Ferdinand. Second World War, it's pretty bad here in Bosnia, of course, in Yugoslavia and whole Europe. And this last war, civil war, it's the worst one in history of this town. Era il 9 novembre, il 9 novembre di 20 anni fa. Per un paio di giorni il ponte fu bombardato e poi alle 10:15 un'ultima bomba lo fece crollare. Il ponte di Mostar fu costruito quasi 5 secoli fa e fu distrutto appunto nel 1993 durante la guerra in Bosnia Erzegovina. Un simbolo, ma non solo, qualcosa di più, perché quel ponte univa, quel ponte era anche un collegamento vitale. 20 anni dopo la distruzione di quel ponte ha lasciato dei segni, e proprio di questo vogliamo parlare. Lo facciamo con Azra Nuesendic, scusa Azra, sicuramente ho pronunciato male il tuo nome, giornalista di origine bosniaca, collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso, su cui ha scritto un bellissimo pezzo che abbiamo già linkato sulle nostre piazze virtuali Facebook e Twitter. Ciao Azra, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Ti do il permesso di pronunciare correttamente il tuo cognome. No, hai pronunciato molto bene, non che Sendic, è vero. Ok, grazie. Azra, tu nel tuo articolo racconti molto bene quello che è successo 20 anni fa, però voglio portarti ad oggi. Cos'è rimasto oggi di quel ponte? Che cosa rappresenta oggi quel ponte? Quali sono i segni, le cicatrici, probabilmente indelebili, di quello che è successo 20 anni fa? Allora, il ponte, come dicevi tu, era un grande simbolo, non solo per la gente di Mostar, ma anche per la Bosnia, quello che la Bosnia era 20 anni fa, prima della guerra, dove varie etnie, religioni, la gente diversa viveva in pace e in reciproca tolleranza. Il ponte non fu distrutto, la distruzione del ponte non era un caso, non era una, come si dice oggi, un esito collaterale della guerra, anzi il ponte più proprio intenzionalmente bersagliato, perché si voleva distruggere tutto quello che presentava la società della Bosnia. Per secoli precedenti. Certo. Il ponte vecchio fu distrutto, dopo nel 2004 fu ricostruito con una grande azione a livello mondiale, però quello che secondo me è peggio della distruzione fisica di una costruzione come il ponte vecchio di Mostar è il fatto che la società della stessa Mostar e della Bosnia è stata distrutta. E questa politica di dividere, di non stare insieme, di non tollerare altro vicino, diverso, purtroppo questa politica va avanti. Mostar di oggi è una città di 120.000 abitanti dove bosniaci musulmani alla sponda est del fiume Neretva non spartiscono niente con cittadini croati che stanno dall'altra parte del fiume Neretva. Questo è il peggiore esito della distruzione del ponte vecchio. Chi ha deciso ha vinto, chi ha deciso di distruggere quel ponte ha ottenuto ciò che voleva. Sì, purtroppo è così, perché i politici che hanno portato a questa distruzione, i politici croati o serbi, ma anche alcuni bosniaci che hanno preparato, eseguito la guerra, maggior parte di loro è stata condannata dal Tribunale di Haia. Purtroppo la politica che ci ha portato la Bosnia e Herzegovina alla guerra non è stata sconfitta, anzi va avanti. E io direi oggi che sì, la guerra là si combatte però con altri mezzi, tramite la politica di divisione, tramite la politica di non fare niente insieme, di odiare altro, ecco, questa politica va avanti. E purtroppo la società bosniaca, che è molto debole, non riesce a risolvere questo problema da sola, e dall'altra parte la comunità europea, la comunità internazionale comunque è molto occupata da altri problemi e non porre attenzione a quello che sta succedendo là. È molto lontana l'Europa oggi dalla Bosnia. Ma questa è la domanda che mi chiedo molto spesso, se la Bosnia è più lontana dall'Europa o l'Europa dalla Bosnia. Questo è vero, però questa lontananza non è fisica, perché ci vogliono un'ora con aereo per raggiungere la Bosnia, da alcune capitali europee anche meno. La lontananza è proprio della mentalità, della eredità, della guerra, della politica che va avanti, perché l'Europa e tutto il mondo va verso unificazione, verso aggiungere altri paesi nella comunità europea. Invece là, in Bosnia, abbiamo un processo retrogrado, si va indietro. Invece... Così, passando agli aspetti un po' più folcloristici, abbiamo aperto il collegamento ascoltando alcune interviste a questi tuffatori, perché ogni anno c'è questo rito del tuffo dal ponte, no? Da questa altezza di 27 metri, sono giovani ben addestrati. E, ci saranno celebrazioni particolari oggi per ricordare i 20 anni? Allora, i tuffi dal ponte vecchio si fanno in luglio, è una tradizione quasi dei 40 anni, molto bella, che attira tantissimi turisti. Invece la celebrazione della distruzione del ponte vecchio si fa oggi proprio, sì. E purtroppo anche in questo caso la città Mostar è divisa. Di solito il 9 novembre, cioè la data odierna, i bosniaci, cioè i musulmani, visitano il ponte vecchio e buttano nel fiume i fiori per commemorare quello atto terribile, perché la gente, con la distruzione di Mostar, la gente di Ponte Vecchio, non solo la gente di Mostar, ma in generale i bosniaci e erzegovesi sono stati talmente colpiti come fossero subito una mancanza delle persone molto care, sì. Dei propri familiari. Quindi insomma c'è un legame Allora i bosniaci commemorano questa giornata, invece le autorità croate fanno una modesta cerimonia in luglio per segnalare il giorno quando il Ponte Vecchio è stato ricostruito. Stavo leggendo su balcanicaucaso.org, dove hai pubblicato il tuo articolo, c'è anche un commento, non so se hai avuto la possibilità di leggerlo, proprio di una famiglia, di una famiglia italiana che ospitava alcuni profughi bosniaci. Hanno il ricordo di quella mattina e dice questa, dice Daniela: ricordo benissimo il volto rigato dalle lacrime di questa mamma. Pensavo fosse successo qualcosa di grave a qualche nostro familiare rimasto in Bosnia, e invece mi aveva detto hanno abbattuto il ponte. Com'è possibile? Proprio per capire il significato che aveva quel ponte, che ha quel ponte per i bosniaci. È vero, proprio così, perché la gente ragionava in questo modo: se quelli che attaccavano Mostar, quelli che bombardavano, se si osano di distruggere una cosa sacra, perché per la gente di Mostar il ponte Vecchio era una cosa sacra, come una chiesa, come una moschea. Certo, era al cuore, allora, al cuore. Non c'è niente anche per noi. Esatto. Grazie davvero Asra, grazie davvero per la tua testimonianza, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, a tutta la squadra dell'Altra Europa, Giorgio De Luca oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica, Margherita Ina che con me ha scritto la puntata. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo, vi aspettiamo in rete. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.